Ricordate che l'altra volta abbiamo detto pochissimo sul tema patì sotto Ponzio Pilato. Questa sera ci rimane da dire qualche cosa sul fu crocifisso. Non certo stiamo a descrivere la crocifissione. Nella settimana santa uscirà un cinema di macelleria dove l'80% sarà bastonate, brandelli di pelle che vanno, sangue che schizza dappertutto. Io non andrò a vederlo, sia chiaro, anche perché la passione di Cristo non è prima di tutto la passione di un patire fisico, ha preso delle botte, è stato inchiodato, c'è quella realtà lì, è pesante. È una passione d'amore, ma chi gliel'ha fatto fare? Era così innamorato di me che mi ha seguito fino nella degradazione della mia morte per salvarmi anche dal profondo degli inferi. Nonostante che per venirmi dietro abbia dovuto passare attraverso una bastonatura, una flagellazione infame e una morte su un patibolo. Dunque, anche nella settimana santa, siate un po' furbi, siate un po' fini, non fermatevi in una forma, direi, poco intelligente a dire è la settimana di passione perché Cristo ha patito le botte. No, è la settimana della passione d'amore che Cristo ha per noi. È quel che c'è dentro nel Cristo il problema grave. Dice, anche lui ha avuto la paura del morire. Sì. E no, certo era un uomo, ha avuto anche la paura del morire, ma è relativa. Il dramma vissuto da Cristo nell'agonia, nella flagellazione sulla croce, è il dramma di uno che San Paolo dice è diventato la personificazione del peccato, è l'agnello di Dio che ha preso su di sé i peccati di tutto il mondo. E si presenta a Dio santissimo e giustissimo, lui con una coscienza santissima come quella che può essere la coscienza del figlio di Dio, con addosso tutte le porcherie, i peccati, le cattiverie, i misfatti, le violenze, le guerre dell'umanità intera. Voi capite il disagio tra la santità assoluta e tutto il peccato che viene condensato addosso a lui sulla sua coscienza. Questo è il motivo per cui Cristo grida al Padre, versa lacrime. Questo è il motivo. Quando dice passi da me questo calice, ma non è principalmente fa che io non muoia. Vedi se è possibile. E questa l'ha detto per far capire a noi quel che è probabile, se posso fare a meno di ingoiarmi tutta questa fogna dei peccati dell'umanità, perché sento una ribellione, sento un vomito. Se qualcuno di voi oggi avesse ammazzato 3-4 persone e avesse sulla coscienza questi delitti, probabilmente stanotte non riuscirebbe a dormire. Cristo si è preso sulla coscienza tutti gli ammazzamenti della storia. C'era da morire scoppiando di disperazione, di ribellione. Lui, tra l'altro, che non aveva una coscienza compromessa come la nostra, ma una coscienza pulitissima, è l'innocente con la I maiuscola. Quella è la passione e il significato della passione di Cristo, una passione d'amore. Prima che una passione di sofferenze, per cui dobbiamo ricordare questo. L'ha fatto perché mi ha voluto bene. E voler bene quando tutto è semplice viene spontaneo anche a noi, ma quando per volerti bene io devo morire, e allora devo volerti veramente tanto bene per morire al posto tuo o perché non muoia tu. Questo è il problema, il dramma dell'amore di Cristo, della passione d'amore di Cristo, che spiega poi il perché non ha avuto paura di affrontare una passione di sofferenza, di patimenti, di morte violenta, di patibolo. Gesù Cristo che muore sulla croce è un non violento. Leggo quello che dice Gesù nel capitolo 5 del Vangelo di Matteo, teniamolo presente. Io vi dico di non opporvi al malvagio, anzi, se uno ti percuote la guancia destra, tu porgigli anche l'altra. E a chi ti vuole chiamare a giudizio per toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà a fare un miglio di strada con lui, un chilometro e mezzo, tu fanne con lui due. Ossia, la tua non violenza deve essere il doppio della violenza di chi ti costringe, ti vuole in qualche modo mettere sotto i piedi. E allora vediamo che Cristo non violento assorbe in sé la violenza di tutta l'umanità, ma non reagisce con la violenza. Perché Cristo, Dio, è amore, può solo amare, può usare solo i mezzi dell'amore. Qualcuno dice, ma Dio costringerà pur qualcuno con le buone e con le cattive. No, no, cavatevi via quell'idea lì, perché l'amore non può usare i mezzi della violenza. Se volete, possiamo averne almeno in teoria un'esperienza tutti. O tua moglie, tuo marito ti ama liberamente, se ti costringe a star con lui, a far l'amore con lui, ottiene esattamente il contrario di quello che la sua violenza cercava di ottenere. O sbaglio? La violenza ammazza l'amore, contrista la persona amata e dice, ah, anche la violenza devo subire, che è esattamente il contrario dell'amore. Ecco allora, Dio è un non violento perché ama. Abbiamo detto anche in passato, certe cose vanno chiarite, anche parlando con qualcuno di voi venendo su per la sala, ma vanno chiarite le cose. Se Dio è amore e mi vuole un bene infinito, perché devo aver paura di Dio? Un Dio che mi ama anche quando io sono cattivo, anche quando io pecco, anche quando io lo odio, quando lo bestemmio. Io mi comporto male, ma lui continua a comportarsi bene. Anzi, in quei momenti, se si può dire così, mi ama di più di quando sono buono, perché ho più bisogno di essere perdonato e recuperato, come i figli si recuperano quando sono cattivi, usando più amore, più pazienza di quando sono buoni. E Dio è nostro papà. Dunque, niente violenza. La liberazione proclamata da Gesù Cristo non è avvenuta attraverso la morte dei peccatori. Cristo giusto dice, sono venuto per pulire il mondo, ammazzo tutti i peccatori così estirpiamo il male. No, muore lui innocente, non fa morire i colpevoli. Questo spiega anche perché Dio permette il dolore degli innocenti, la morte degli innocenti. Dico permette, il tumore a un bambino nasce già col tumore. Ma queste cose io proprio non le tollero, non posso sopportarle. Se Dio è Dio, queste cose, capisco la tua ribellione, ma io ti dico, ma non per smontare la tua protesta, certo il bambino innocente è un problema, anche la mia sensibilità, però ricordati che Gesù Cristo, figlio di Dio, era più innocente del bambino innocente. Se proprio io mi scandalizzo di fronte al dolore degli innocenti, mi scandalizzo di fronte al dolore di Dio, che era il più innocente di tutti. qualche cosa ancora su questo fatto. Si dice che Gesù Cristo è morto sulla croce per liberarci dal peccato. Anche nella messa il Papa Paolo VI ha voluto mettere dentro quel cuneo che non c'è nei testi della Bibbia: questo è il mio corpo offerto in sacrificio, che non c'è scritto nelle frasi della Bibbia riportate lì, per voi. Si parla di liberazione, si parla di redenzione. Redimere vuol dire pagare un riscatto per una persona che era stato sequestrato dai banditi. Allora qui salta fuori e si sono dette tante stupidaggini sul conto della morte di Cristo e sull'atteggiamento che teneva il Padre su in paradiso, tranquillo, beato, non ha mosso un dito, diciamo noi. Sono idiozie uniche. Il primo esempio di liberazione, di riscatto, di redenzione che si legge nella Bibbia è quando Dio libera, riscatta Israele dalla schiavitù dell'Egitto e lo porta fuori e lo porta nella terra di Palestina. Che cosa ha dato Dio al faraone per riscattare il suo figlio? Quanti soldi ha versato per riscattare Israele? Non gli ha dato niente, gli ha dato un fracco di legnate, ricordate le 10 piaghe d'Egitto. Ha fatto morire i primogeniti e ha portato fuori il suo popolo, il quale proprio il giorno prima di partire è andato dagli egiziani con cui erano un po' in contatto, chiedendo, e questa è una sottolineatura per farci capire il concetto, che prestassero loro i vestiti nuovi per le feste, i pendagli e gli orecchini e tutti i monili d'oro, perché andavano qualche giorno nel deserto a fare festa al loro Dio, poi sarebbero tornati e avrebbero consegnato agli egiziani i vestiti della festa e tutti gli ori che gli avevano dato in prestito per far festa. E invece sono scappati via e glieli hanno rubati. Quindi il riscatto che Dio ha fatto del suo popolo in Egitto non è stato un versamento di soldi o di qualcos'altro, è stato addirittura una bastonatura, la morte dei primogeniti, e anche gli hanno fregato anche i vestiti buoni e i monili che avevano. Ossia, riscatto per noi vuol dire versare dei soldi. Hanno riscattato uno che era giù in Calabria e hanno dovuto pagare dei miliardi, ma nella Bibbia non ha questo significato. Dio ha versato il suo sangue per noi e per tutti per riscattarci dal demonio. Allora, via con la fantasia selvaggia. Dio Padre fa quattro parole col diavolo e dice: tu mi hai rubato l'umanità, allora io la voglio libera e ti pago il riscatto. Sai cosa verso? Il meglio che ho, il sangue di mio figlio, apri la bocca che te lo metto dentro tutto. Più di così, questo è il prezzo, il denaro più alto che ho. Ma sono cose da imbecilli. Lo dico perché qualche arcivescovo predicatore alla corte dei Luigi di Francia nel 1700 ha fatto dei discorsi sul Venerdì Santo, cose di questo mondo. Ve ne cito due pezzetti così a mente. Gesù Cristo prega il Padre perché lo liberi e il Padre adirato si gira dall'altra parte. E Gesù prega e il Padre non ascolta, perché vuole che il suo onore sia riparato, perché gli ha mancato di rispetto. E o paghi l'uomo peccatore, o paghi suo figlio che è diventato uomo, a lui non gliene interessa, purché gli sia ripagato, ridato indietro il suo onore. Ma questo è un sanguinario, una belva, non è Dio. Vi ricordate la crocifissione del Masaccio? C'è Gesù sulla croce, c'è il Padre Eterno dietro la croce che sostiene il Figlio, c'è lo Spirito Santo. Tutti e tre sono sempre dappertutto e avendo una volontà sola, e per il principio della pericoresi, parlo con lui che sa ste robe di teologia, ossia i tre comunicano continuamente l'uno con l'altro, quando uno dei tre soffre, soffrono anche gli altri due. Quando uno dei tre è contento, sono contenti anche gli altri due, perché sono un solo Dio. Quando Gesù Cristo ha sofferto sulla croce, con Lui hanno sofferto infinitamente il Padre e anche lo Spirito Santo, in barba al Catechismo di Pio X, quale dice: Dio si è fatto uomo perché come Dio non poteva né soffrire né morire. Stiamo freschi. Avevano già risposto queste obiezioni i primi padri della Chiesa. Origene, un prete di Alessandria d'Egitto, morto nel 256, mi pare, diceva: se Gesù Cristo non avesse già sofferto quando era in paradiso, vedendo la nostra miserevole condizione di condannati all'inferno, non si sarebbe neanche mosso per venire in nostro soccorso, e non era ancora incarnato. Chi ama soffre necessariamente quando la persona amata sta male. Dio ci ama quando stiamo male, se è vero che ci ama, sta male. Come voi quando avete un marito, una moglie, un amico, un figlio che sta male, state male. Perché chi ama sente il contraccolpo della preoccupazione e della sofferenza dell'altro. Se no, vuol dire che non si ama. Ecco allora, abbiamo detto che Gesù è stato crocifisso, fu crocifisso per noi. Questa parolina per noi ci fa capire il significato della crocifissione e anche di altre cose. Notate, nel Credo si dice: per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, fu crocifisso per noi. Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto per voi, questo è il mio sangue versato per voi. Questo per a vostro pro vuol dire che Cristo è venuto per recare un beneficio a noi, perché noi ne avessimo un beneficio a sue spese. Questo è l'amore. Gesù Cristo non ha fatto neanche un miracolo per sé, ne ha fatti e continua a farne un'infinità per noi. È un altruista, è l'uomo per gli altri ed è l'uomo ideale. Chi è l'uomo, il grande uomo, l'uomo realizzato? L'uomo che dimentica se stesso per spendere la vita per gli altri, come ha fatto Cristo, l'altruista. L'egoista è la contraffazione dell'uomo, è la degradazione dell'uomo. Dunque morì e fu sepolto, e poi c'è anche discesa agli inferi. È morto per davvero Gesù Cristo, certamente. Prima di morire però c'è stato tutto un battibecco di questo genere. Pilato dice: vi libero uno in occasione della Pasqua, vi do questo Gesù Cristo libero, io non trovo un motivo per condannarlo a morte. No, ammazza quello, in cambio ci dai libero Barabba. Voi sapete che Barabba vuol dire figlio del padre, presso gli ebrei Barabba corrispondeva e corrisponde al nostro figlio di NN, come si usava a dire una volta, di padre non noto, non conosciuto. Notate anche qui la dissonanza, il figlio del padre eterno, messo a confronto con il figlio di nessuno, diciamo così per capirci, e viene liberato, premiato, il figlio di nessuno, e viene condannato il figlio del padre eterno. Voi dite, ma però vi dico subito, è bene che sia stato così. No, ma dice, è stato un errore giudiziario. No, è Dio che voleva così. Quando noi leggiamo il Vangelo, soprattutto il Vangelo della Passione, abbiamo tanti modi per leggerlo. Io lo leggo che sono contento da matto. Qualcuno ci piange su, miagola, fa... A me viene da fare dei salti di gioia. Quando gli ebrei gridano crocifiggilo, crocifiggilo, io grido con più entusiasmo di loro crocifiggilo, crocifiggilo, perché se non va a morire sulla croce io vado all'inferno. Quindi chiedo al Padre Eterno e a chi ha fatto l'esecuzione, ammazzatelo questo Cristo, ma non perché lo odio, ma perché se lui non muore per me, io muoio di morte eterna. Voi capite che si possono dire quelle parole lì, non con la cattiveria e l'odio con cui le hanno dette loro, ma con un amore, una devozione e un senso di ringraziamento, dicendo meno male che mi ha voluto tanto bene da morire per me, per la mia salvezza, e non ha esitato neanche un istante. È per quello che posso credere all'amore di Dio, perché non sono parole, io vi voglio bene, parole, me l'ha dimostrato coi fatti, ha voluto più bene a me di quanto ne ha voluto a se stesso. Non ha esitato a morire lui perché non morissi io di morte eterna. Questa è una manifestazione incontrovertibile, incontestabile di amore. Morì. Quindi non è un caso che il Barabba che aveva fatto un omicidio vada a casa libero e l'innocente vada a finire sulla croce. Non è nemmeno un caso, ma è una scelta d'amore, una scelta di campo, che Gesù Cristo vada a morire sulla croce in mezzo a due malfattori, due briganti, due ladroni, per cui viene fuori il buon ladrone. Il più esatto probabilmente è San Giovanni, che li chiama lestai, lestes al singolare, che non vuol dire né brigante né ladro né questo né quell'altro. Il lestes a quel tempo vuol dire il brigatista politico che fa delle imboscate per dare addosso all'esercito della potenza occupante, come i nostri brigatisti rossi o neri per un verso, o quelli comunque che fanno la guerriglia, i partigiani se volete. Erano due che erano stati presi in un'imboscata contro l'esercito romano. E Gesù si trova lì, in mezzo. Questi qui sono due lazzaroni, lui il più lazzarone di tutti, messo lì in mezzo. Effettivamente Gesù Cristo, scusatemi, passatemi l'espressione, può essere definito il più peccatore, il più lazzarone di tutti, perché portava su di sé i peccati di tutta l'umanità. Non erano peccati suoi, erano i peccati nostri. Dalli a me, che li pago io sulla mia pelle. Per capire la morte di Cristo in croce come perdono dei peccati, bisogna leggere necessariamente il libro del Levitico, io sarò breve perché frigo, i capitoli 14, 15 e 16 soprattutto, dove Dio insegna al popolo degli ebrei come fare a scaricarsi di dosso i peccati. Quando erano ancora nel deserto, ha inventato questo rito. Prendete un caprone, un becco, un agnello, ecco che salta fuori poi l'agnello di Dio che prende su di sé i peccati del mondo. Lo mettete davanti a tutta la popolazione, in mezzo all'accampamento, ognuno passa lì, mette le mani sopra questa bestia e si scarica dei suoi peccati. Li riversa su questa bestia, è una specie di transfer, i vostri peccati, dite io me li levo di dosso e li metto addosso a questo animale. Quando tutti avrete scaricato i peccati addosso a questo animale, uno lo porti fuori dall'accampamento o lo ammazza o lo lascia mangiare dalle belve, l'importante è che muoia, perché quando muore con lui muoiono anche i suoi peccati, che sono i vostri che li avete scaricato addosso. Lo porterete fuori dall'accampamento e lo farete morire. Cos'è capitato a Gesù Cristo? È stato portato fuori dalle mura dell'accampamento, la città di Gerusalemme, fuori dalle mura ha patito ed è morto, scrive l'autore della lettera agli ebrei. Si era preso addosso tutti i nostri peccati e li aveva fatti diventare suoi. E morendo lui, con lui sono morti anche i suoi debiti, che erano i nostri debiti. Questa è la mentalità ebraica che noi dobbiamo imparare, se no non si capisce mica, muore lui e perdonano me. C'è tutta una lunga tradizione, c'è un modo di pensare e di fare dall'Antico Testamento che spiega questo comportamento del Figlio di Dio nel Nuovo. Leggo brevemente un pezzetto di Vangelo, perché qualcuno ha detto lungo i secoli, l'ha messo nella tomba, però non era morto, l'ha tirato giù alla svelta. A contatto con la pietra fredda si è risvegliato ed è scappato via, poi si è fatto tamponare le ferite, insomma, è mica morto, è risuscitato. Si è svegliato a contatto con il freddo della pietra che aveva sotto la schiena. Fosse stato anche semplicemente intontito, sarebbe morto lo stesso dentro nella tomba, se proprio ci fosse questo dubbio. Vi leggo il brano di Vangelo di Matteo al capitolo 27. Giuseppe di Arimatea chiese a Pilato di prendere il corpo di Gesù. Pilato lo concesse. Vi andò anche Nicodemo e portò una mistura di mirra e di aloe di circa 100 libbre, 33 chili, per la precisione 32,700 grammi. Glielo spalmarono tutti addosso. Io dico, nella tua camera da letto, tu sano, sanissimo, chiudi dentro, ti chiudi, e apri un barattolo da 33 kg di profumi, muori asfissiato. Sarebbe morto asfissiato se non altro per questo particolare, fosse stato anche vivo, perché l'aspirazione di tutti questi profumi che si volatizzavano per l'aria era più che sufficiente per far morire uno sano, non uno che era stato messo in croce. Essi presero allora il corpo di Gesù e lo avvolsero in bente insieme con gli oli aromatici, come usanza seppellire per i giudei. Quindi questi 32 kg e 700 glieli ha messi tutti addosso. Questo è il Vangelo di Giovanni. Il Vangelo di Matteo dice: Giuseppe, preso il corpo di Gesù, lo avvolse in un candido lenzuolo e lo depose nella sua tomba nuova che si era fatta scavare nella roccia. Rotolata via poi una grande pietra sulla porta del sepolcro, se ne andò. E poi qui si dice, Pilato disse ai sommi sacerdoti: visto che avete paura che i discepoli portino via il cadavere, mettete le guardie. Quindi dice: ordina dunque, o Pilato, che sia vigilato il sepolcro fino al terzo giorno, perché non vengano i suoi discepoli, lo rubino e poi dicano al popolo: è risuscitato dai morti. Quindi c'erano le guardie fuori dal sepolcro. Motivazioni date dal Vangelo per dire: era morto per davvero e nessuno ha portato via il cadavere. C'è un'altra espressione nel credo: discese agli inferi. Gli inferi vuol dire le parti basse, ossia il sottoterra. La mentalità di allora era questo: quando uno moriva andava a finire, diciamo, in un campo di concentramento sottoterra, dove si radunavano tutti i morti, da Adamo ed Eva fino a quello che era morto l'istante prima. Quindi andavano a radunarsi tutti in questi inferi, in questi luoghi inferiori, nel sottoterra. Tutti. Nessuno è andato in paradiso, nessuno, perché era lì in attesa, perché la porta del paradiso era chiusa a colpa del peccato di Adamo, di Eva, il peccato dell'umanità. Cosa è andato a fare Gesù Cristo negli inferi? È andato a portare l'annuncio della salvezza a tutti quelli che c'erano lì. Addirittura, dice San Pietro nella sua prima lettera, appena spirato in croce, Gesù Cristo in spirito, non col corpo che è rimasto lì, in spirito, con l'anima, lo Spirito Santo, discese agli inferi a portare il lieto annunzio della salvezza a tutti quelli che erano morti dall'inizio fino a quel momento lì. Portò l'annuncio della salvezza anche a quelli che si erano rifiutati di credere al tempo in cui Noè fabbricava l'arca e furono affogati dalle acque del diluvio. presso gli ebrei gli affogati del tempo del diluvio erano ritenuti i peggiori dei peggiori, l'umanità più corrotta, più marcia, erano quelli. È andato ad annunciare la salvezza anche a quelli lì, a quelli che secondo noi, se non sono andati all'inferno, quelli non ci è andato nessuno. Anche a quelli ha portato la salvezza. Dice a qualcuno, beh insomma, andiamo piano a dire salva tutti. No, Dio salva tutti, l'ha detto e l'ha fatto scrivere. Se poi qualcuno non vuole essere salvato, non dipende da Dio, ma da lui. È scritto nella prima lettera di Paolo a Timoteo, capitolo 1, versetto 24, seconda lettera di Paolo a Timoteo. Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati. Ditemi il contrario. Se la Bibbia dice quello, chi ha diritto di dire il contrario? Io no, di certo, sono contento che Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati, così vuole che mi salvi anch'io. Lui mi salva, ovviamente. Ma qualcuno andrà all'inferno? Non lo so. Ma se ci va, non è perché lo manda Dio, ma perché lui non vuole entrare in paradiso e resta fuori. Dicevo a qualcuno di voi che era preoccupato, ma tu se fossi sul posto del Padre Eterno di Gesù Cristo, lasceresti fuori per sempre dal paradiso uno dei tuoi figli o tua moglie? Ah, io no. E perché dovrebbe lasciargli fuori il Padre Eterno che è infinitamente più buono di te? Sono dei ragionamenti elementari. Nessuno di voi lascerebbe un figlio fuori dal paradiso. Siete d'accordo? E perché dovrebbe lasciargli fuori il Padre Eterno che è un infinito amore, un papà di infinito amore mio, tuo e di tutti, dei buoni e dei cattivi? Dio vuole che tutti siano salvati. Se poi qualcuno liberamente dirà e io non voglio essere salvato, sarà un problema creato dall'uomo. L'inferno se lo crea lui rifiutando il paradiso. C'è un'altra frase che spiega questa verità. Quando Gesù, preannunciando la sua morte in croce, la sua elevazione in croce e la sua ascensione al cielo, dice nel Vangelo di Giovanni, io quando sarò elevato da terra, ossia inchiodato sulla croce, poi quando salirò in paradiso, attirerò tutti e tutto a me, mi tiro dietro tutti. Ecco allora che noi troviamo una bellissima frase, per esempio, di questo padre della Chiesa, Sant'Ignazio di Antiochia, che scrive: Gesù, disceso da solo agli inferi, ne è risalito con una moltitudine. È andato giù e ha detto, c'ho la chiave per entrare in paradiso. Chi vuol venire? È andato giù con una processione che non finiva più. Sono andati in paradiso per i loro meriti. Ma leviamoci via dalla testa questa stupidaggine assoluta. La salvezza è gratis. Quando si cantava quell'inno per metà pazzotico, il Dies Irae, fino a metà era un canto pazzotico, aveva niente di cristiano. Ma da metà in avanti, quando incominciava a mettere dentro del Vangelo, diventava veramente un pezzo. Qui, salvandos, salvas gratis, vi ricordate che si cantava in latino? Vuol dire, quelli che tu salvi, li salvi gratis. Ma quante volte San Paolo dice nelle sue lettere, voi siete stati salvati gratis, per grazia. Dice, ma io mi devo guadagnare il paradiso. Ma non dire queste stupidaggini, non guadagno un bel niente. La salvezza è gratuita. Che non vuol dire che uno può fare il cretino, poi si salverà, perché facendo il cretino è già uno che col suo comportamento dice e io non voglio essere salvato, ma non perché Dio non lo salva, ma perché lui non prende la salvezza. Ecco allora, questo discese agli inferi è anche un aiuto per capire, direi in qualche modo una spiegazione, di tutte le catastrofi che avvengono i morti di Madrid, un terremoto, un'inondazione. Gesù Cristo è andato e ha portato la salvezza anche a quelli che vennero affogati al tempo del diluvio. Faccio un paragone che non è scientifico, perché qualcuno potrebbe protestare, non si fa così, ma comunque a casa mia facevano così, forse l'avete fatto anche voi. Quando voi cucinate e il fuoco vi entra dentro nella padella e incomincia a bruciare l'olio e vi brucia la bistecca, istintivamente cosa avete fatto con le padelle di una volta? Oggi è tutto superlativo. Si correva sotto il rubinetto dell'acqua e si cercava di spegnere il fuoco per salvare almeno un pezzetto di bistecca, no? L'avete mai fatto voi? Io l'ho visto fare più di una volta a casa mia. Salvare è salvabile. Anneghiamo il fuoco, anneghiamo la bistecca, anneghiamo tutto per vedere che non si bruci del tutto, per averne almeno un pezzettino. Quando si dice Dio è un amore infinito, fa presto lei a dirlo, guardi per esempio il diluvio universale, se quello lì è amore, ma certo che è amore, è un gesto di amore superlativo e ce lo conferma la prima lettera di San Pietro. Vedendo un'umanità che andava verso la corruzione totale, Dio ha bloccato questa umanità prima che fosse corrotta del tutto, affogandola con l'acqua del diluvio come tu affoghi la bistecca per salvarne almeno un pezzettino, perché andando agli inferi non fossero totalmente irrecuperabili, totalmente marci e persi, ma avessero un pezzetto di anima vergine a cui agganciare la salvezza perché andassero in paradiso anche quelli. Si parla spesso, è morto nel fiore degli anni, è morto in un momento di... Se Dio ha permesso, avrà lo scopo, forse è il momento migliore in cui poteva morire, perché se andava avanti forse gli succedeva anche di peggio. Ecco, allora, tutto quello che Dio ha fatto è un gesto di amore infinito, anche il diluvio universale. E io lo dico, Dio, fammi morire questa sera stessa in uno dei fiumi che ci sono tra qui e Bergamo, o dentro nel Serio in Val Seria, vado dentro, ammollo e resto lì e faccio le bollicine, se questo è il modo perché io non arrivi a una cattiveria da essere irrecuperabile, perché in paradiso quelli lì dicono a Dio, meno male che ci hai fermati in tempo, se no andavamo tutti all'inferno così come eravamo conciati. Ecco, allora, questo discese agli inferi, vorrei citare, ma lo cito, un brano qui di un teologo protestante tedesco, ma molto bravo, si chiama Pannenberg, era professore all'Università di Monaco, e ci spiega con poche righe il significato della discesa agli inferi. Poi vi citerò lì vicino un pezzo dell'ultimo concilio che ribadisce le stesse cose. Il credo e la fede di oggi, questo è il libro che lui ha scritto, se qualcuno lo vuole andare a cercare, la citazione è presa da lì. Dice, se Dio si è rivelato appena in Gesù Cristo, se solo in Lui, in Gesù Cristo, è apparsa la salvezza per l'umanità, che ne sarà allora di tutti gli uomini che vissero prima che apparisse Cristo? E che avverrà dei molti che non vennero mai a contatto col messaggio cristiano? Ancora adesso 4 miliardi di persone non sanno il Vangelo, non sono battezzati, 4 miliardi, e notate, tanto per caricare la dose, che la gente si moltiplica, nascono molti bambini, soprattutto da questi popoli che non riceveranno mai né la predicazione né il Vangelo. Allora uno verrebbe da dire, ma Dio fa apposta, fa nascere dei bambini per moltiplicare quelli che andranno all'inferno, perché non saranno battezzati. Dio salva tutti, anche dove noi non arriveremo a predicare il Vangelo e a fare i battesimi. Che ne sarà, infine, degli uomini che udirono sì parlare del messaggio di Cristo, ma forse per colpa dei cristiani stessi incaricati della predicazione, non hanno mai incontrato la verità su di esso. Qualche volta è stato presentato il Vangelo in un modo così squallido che hanno fatto bene a non credere, perché si è presentato un Dio e dice: ma qual è più cattivo di mio padre e di mia madre? Cosa me ne faccio di un Dio bestiale come quello lì, che si gode solo a cacciare i figli all'inferno e a torturarli col forcone, col fuoco e con lo spiedo? Che Dio è quello lì? Ma non credete per piacere e non annunciate quel Dio lì. Allora dice: tutti questi uomini sono andati persi all'inferno? Rimangono esclusi per sempre dall'intimità con Dio che è stata aperta all'umanità da Cristo? A questi interrogativi del come si salveranno gli altri, come farà Dio a salvare gli assassini, ladri, delinquenti, questo è il senso della formula della discesa di Cristo agli inferi nella professione di fede. Essa porta in sé questo senso, due punti. Ciò che in Cristo è stato compiuto per l'umanità, ossia per tutti, vale anche per gli uomini che non sono mai venuti a contatto con il Cristo e con il suo messaggio, o che non sono mai riusciti realmente a scorgere la verità della sua figura e della sua storia. Allora, il Concilio più precisamente dice: attraverso vie che Dio conosce, che noi non conosciamo, ogni uomo viene in contatto personalmente con il Cristo morto e risorto, o durante la sua vita, o proprio nel caso più estremo, nel momento della sua morte. Ossia, Gesù Cristo è morto perché ha detto: mi metto qui dove c'è la morte, qui passano tutti. Se Cristo si fosse messo dove passavano i poveri, i ricchi scappavano per un'altra strada, fosse stato lì dove passano i bianchi, non incontrava i neri, tutti muoiono, bene, qui passano tutti. Nella morte e nella risurrezione Cristo interpella tutti, anche quelli che non l'hanno conosciuto in vita, e gli offre gratis la salvezza. Se non la rifiutano, sono salvati. Lo dice il Concilio Vaticano II. Qui c'è il cristiano, alle volte cattivo, che dice: beh, allora scusa, se Dio salva anche le donne di strada, allora vado a fare anch'io la donna di strada. Ecco, brava, sei venuta a galla. Sei una che non fai la donna di strada, con tutta la voglia che avresti di andare a fare la donna di strada. Ma allora che cristiana sei? Ti dovrebbero fare tanta compassione, ma neanche per le umiliazioni e quant'altro, ma perché stare con Dio è bello, stare lontano da Dio si sta male. Noi abbiamo ancora l'idea che a fare dei peccati ci si diverte, fare le opere buone, che barba, che noia. Voi gente, è ora di ribaltare la testa, né? Con Dio si sta veramente bene, lontano da Dio si sta veramente male. Sono persone da compassionare, ci devono venire le lacrime, bisogna dire: poverino, poverina, non sai quello che ti perdi. Stare con Dio è bellissimo, tu tante cose non le godi, vieni da questa parte, qui si sta benone, lì dove sei tu si sta male. Altro che andare a invidiarli o a peggiorare la loro situazione maledicendo, dicendo: ammazziamoli tutti così vanno in paradiso o all'inferno prima del tempo. Sono cose da matti, e noi siamo tutti un po' matti. Ecco, allora qui dice poi il credo che il terzo giorno risuscitò da morte. Non stiamo a disquisire sul significato del terzo giorno, vi dico solo: non è questione di 1, 2, 3, venerdì, sabato e domenica, non è quello il significato. Il terzo mondo nella Bibbia, nella mentalità degli ebrei, è il giorno della risurrezione universale, è scritto nel libro di Osea, al capitolo 6, e anche nel libro della Genesi, quando si parla del sacrificio di Abramo che va a immolare il figlio Isacco. come facciamo a sapere che è risuscitato? Io prima vorrei dirvi una cosa che io sento, non so se voi sentite. Io non voglio morire, ma mi spiego subito, non nel senso che non voglio restare lì stirato su un letto o finire sotto un tir, quello mi interessa relativamente poco. Voglio che lì non finisca la mia vita, che la mia vita, qualunque sia il modo di chiudere gli occhi a questo mondo, continui da un'altra parte, perché io ho il desiderio di vivere. E il problema più grosso che ho io nella testa è il problema della morte. È vedere se per caso c'è un rimedio alla morte. Ora, io mi sono fatto cristiano da adulto, quando ho ripensato le cose, perché l'unico fondatore di religioni che è morto ed è risuscitato e ha detto: come sono morto e risuscitato io, voi morirete e risusciterete come me, è Gesù Cristo. Degli altri si dice che sono morti, che hanno detto belle cose, sono morti e sono rimasti morti. Io dietro a quelli non ci vado. Per arrivare fino alla morte ci riesco da solo, senza scomodare Confucio o Maometto o qualcun altro. Io voglio trovare uno che mi libera dalla morte, perché dopo la morte mi risuscita e mi dà una vita migliore. Solo per questo faccio il cristiano. E dico volentieri la messa una, due, anche tre, tutti i giorni, perché la messa è il sacramento della risurrezione. Incontro Cristo risuscitato, me lo mangio e dentro di me mi risuscita, deposita in me tutti i germi della risurrezione che esploderanno quando io sarò morto cadavere. Io risusciterò, c'ho dentro la risurrezione dal battesimo e per tutta la vita, perché io ho continuato a imbarcare, a ingoiare il Cristo risuscitato che ha detto: io sono la risurrezione e la vita eterna. Ecco il perché si va alla comunione, per incontrare un Cristo risuscitato che mi risusciti ogni giorno adesso, moralmente, tira via il peccato e mi fa saltare in piedi, voglioso di amare, di fare il bene, che mi tira via lo scoraggiamento, mi rende una persona che si lancia, mi risuscita moralmente, psicologicamente, perché questo deve essere il significato della comunione, della messa. E poi mi risusciterà anche fisicamente, quando morirò. Se non c'è questo, buttate via la religione cristiana, che è una sciocchezza, una perdita di tempo autentica. Lo dice San Paolo nella prima lettera ai Corinti al capitolo 15. Se noi abbiamo fede in Gesù Cristo solo durante la vita presente, ma non nel momento della morte e del dopo morte, siamo da compiangere più di tutti gli altri uomini. O siamo da deridere, se volete. Perché? Perché noi nella vita presente seminiamo, poi si dice al di là ci sarà la raccolta in paradiso. E cosa semini a fare se il paradiso non c'è? Cosa lavori a primavera se sai che non arrivi mai all'autunno, perché l'autunno non c'è? Ma mangiati la semente invece di buttarla via per i prati, no? Ha mica senso. Ecco, allora, Gesù Cristo è risuscitato da morte. E lo sentiamo dire, bisogna predicare più spesso questo, predicare la risurrezione. Sì, per risuscitare bisogna prima morire, quindi Cristo è morto, ma muoio anch'io. È il dopo morte che dà ragione a Gesù Cristo e alle sue scelte. Il Padre lo ha risuscitato. A me interessa la risurrezione. La morte non è una cosa definitiva, è una cosa di passaggio. Bisogna cambiare totalmente la mentalità dei cristiani. Ancora adesso si vanno in giro per delle chiese o altre cose, ci sono su delle paganità, delle stupidaggini, ci vorrebbe un piccone, tira giù, sbatti via, tutte cose idiote. In cima alla Val Seriana, Clusone, c'è sulla danza della morte. Una porcata più grande di quella non potevano fare, va lì tutti a visitarla, guarda, solito teschio, lo scheletro con la ranza in mano che taglia via le... Uè! La morte non è quella roba lì. il vostro San Carlo Borromeo nel 1500 ha chiamato un pittore perché gli facesse un bel quadro della morte. Allora, quello incomincia subito a fare tecchi, ossa, questo, quell'altro, la falce, le solite boiate. E dice, ma cosa fai? Faccio sulla morte. Ma la morte è mica quella roba lì, mi devi fare una bella ragazza con una chiave d'oro in mano che apre la porta del paradiso. Quella è la morte, ossia, è una grazia. San Francesco l'ha cantato, sorella nostra morte corporale, non la morte eterna, guai quella, ma la morte, è mia sorella, è l'ultima signorina che mi prende per mano e mi fa entrare dentro dall'anticamera alla camera del paradiso. Ma buttate via sti teschi, sti cheletri e queste falci, sono la negazione del Vangelo. E poi ci meravigliamo che abbiamo tutta la testa confusa, siamo tutti pazzotici a pensare alla morte, vediamo lì, fanno su poi delle facce di una bruttezza unica. Ma piantatela, è paganesimo puro. Andiamo avanti perché della risurrezione di Cristo ci sarebbe molto da dire. Io vorrei sintetizzare il tutto con questa frase. Se noi andassimo in giro per il mondo a dire alla gente che incontriamo per la strada che c'è rimedio alla morte perché c'è la risurrezione dei morti e riuscissimo a convincere le persone, quelle persone cambierebbero aspetto, cambierebbero vita, perché stanno vivendo, poverini, e molti anche sono cristiani, una vita tragica in cui dice, è già incominciato la vecchiaia, non funziona più questo, non funziona, poi dopo viene la malattia, poi resto solo, solo, la solitudine, bruttissima cosa, e poi insomma muoio, e poi mi metto sottoterra, e poi mi mangiano i vermi, e poi è finita. Ma è chiaro che uno frena tutta la vita per non arrivare mai in fondo al viale che porta al cimitero. Ma se noi stiamo camminando verso il paradiso, si può anche accelerare il passo. E qui vi prendo tutti in castagna e chi ha il messalino vada poi a casa a controllare, perché noi in chiesa alle volte diciamo delle cose splendide, ma se fermi la gente... Un attimo, ripeto quel che stavamo dicendo scritto sul libro, la gente resta con quattro spanne di naso. Festa di tutti i santi, 1° novembre, prefazio. Oggi contempliamo la Gerusalemme celeste che è nostra madre. Verso di lei noi pellegrini sulla terra affrettiamo il passo nella sicura speranza. Ma chi è che accelera il passo per andare in paradiso? Ne parleremo quando si dirà, credo, la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Ma chi accelera il passo? Perché non so chi, ma ci è stato presentato come una cosa dove non vorremmo mai andare. Ma se il paradiso è stare con Cristo e tu con questo Cristo non ci vuoi mai andare, non dirmi che sei innamorato o innamorata di Cristo, che ami Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente e le forze. Se l'umanità è la sposa designata di Cristo in paradiso, perché il paradiso è fare l'amore con Cristo per tutta l'eternità senza smettere neanche un attimo. Poi, più di così non si può mica buttare lì davanti alle speranze della... Fare l'amore per tutta l'eternità tra di noi e con Dio. Tutta l'umanità salvata è come una bella ragazza, cito l'Apocalisse, che scende da Dio, preparata da Dio, vestita da Dio a nozze, che va incontro allo sposo Cristo Dio per le nozze eterne. Tutto è paradiso. Se uno vuol bene a Cristo dice, io non vedo l'ora di andarci. Come due fidanzati posso dire, non vediamo l'ora di sposarci. San Paolo diceva, io desidero essere sciolto da questo corpo per andare a stare con Cristo. Io era un innamorato. E come una ragazza ha il coraggio di dare uno strappo dalla casa dove è nata, dai genitori, dai fratelli, dalle bambole, da tutta la sua vita che è passata lì. E lo fa perché c'è un amore più grande che la tira da un'altra parte, un ragazzo, un marito, e va a farsi una famiglia, una casa per conto suo. Così anche noi dobbiamo uscire fuori dalla nostra casa dove siamo nati qui in terra, man mano che questo amore per Cristo, quello che ha Lui per noi e anche quel pochino che abbiamo noi per Lui, diventa così grande da dire: io pianto qui tutto, anche se li ho amati, ho amato il mio paese, il papà, la mamma, le mie bambole, il marito, i figli, e io adesso vado via perché ho perso la testa per Gesù Cristo e questo amore è più grande di quest'altro, per cui vado via anche e riesco a fare lo strappo. Ecco, allora andiamo in giro a dire la risurrezione di Cristo, che è anche la nostra risurrezione. La gente vive felice, vive contenta, perché sta andando verso il meglio, verso l'ottimo, non verso il peggio. Guardate che noi, se non abbiamo una fede sincera, abbiamo l'impressione di andare verso il peggio. Se potessi tornare indietro a quando avevo 20 anni, cosa vuol dire? Il bello è rimasto dietro le spalle, davanti abbiamo solo vecchiaia, malattia, cecità, sordità, morte, sottoterra, ciao, buonanotte. Ma allora piantiamole, a cosa serve fare i cristiani se si va sottoterra per restare sottoterra? Io dico sempre, Hitler quando è morto ha fatto un mucchietto di terra. E San Francesco quando è morto ha fatto un mucchietto di terra. Se quella è la conclusione di un assassino e di un santo, che differenza c'è tra l'assassino e il santo? Tutti e due sono destinati a fare un mucchietto di terra. Ha senso vivere per diventare un mucchietto di terra? Per me no. Ecco, allora Gesù Cristo risuscitò da morte, salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, e poi diremo anche verrà a giudicare i vivi e i morti. Sedere alla destra, non prendiamolo nel senso materiale della cosa, è che una volta i re stavano seduti e tutta la corte, i cortigiani stavano in piedi, e quello che stava alla destra del re era il figlio primogenito, era il successore. Quindi Gesù Cristo è seduto alla destra del Padre, che vuol dire insieme con il Padre sono i signori del mondo, della storia, dell'umanità, eccetera. Questo vuol dire seduto alla destra del Padre, come tu metteresti seduto alla tua destra il tuo figlio primogenito. Ecco, stiamo attenti però, salì al cielo, discese agli inferi, quanti chilometri ha fatto per salire o scendere? Salire al cielo vuol dire entrare nel mondo di Dio anche con la propria umanità, col proprio corpo, è entrato completamente in Dio. Il cielo non è una questione, il cielo è lassù, è la terra qui e il diavolo è sottoterra. Forse è vero che il diavolo è sottoterra, purtroppo è qui chi ci rompe le scatole. Ma per fortuna è anche vero che Dio non sta sulle nuvole, è qui tra di noi che lavora per salvarci. Ecco, allora, dobbiamo dire una cosa su questa salita di Gesù al cielo. Qualcuno si frega le mani dicendo: meno male che quel rompiscatole se n'è andato, così adesso possiamo continuare a fare quel che volevamo come prima, a rubare, ad ammazzare, tanto lui se n'è andato. No, Dio non se ne va mai. Vi ho già detto anche la traduzione del nome di Dio, Yahweh, io sono, come traduce la Bibbia, non è azzeccata. Io sono qui. Per la Bibbia non esiste l'uomo ateo come lo pensiamo ai nostri giorni, che dice Dio non c'è. Mai nella Bibbia uno ha detto che Dio non esiste. L'ateo è colui che dice che Dio non è qui, ma è altrove, lontano. Dio c'è, ma non è qui. Il vero credente è quello che dice Dio è qui. Ecco, allora, Yahweh, Dio è qui con noi a nostro favore, schierato dalla nostra parte, nostro amico, l'avversario non è Dio, cavatevela dalla testa sta idea. Quando arriverò di là e troverò lì Dio, il padre e il figlio, ce li avrò contro, perché con tutto quel che ho combinato. Ma se ti ha già spiegato che è il Dio con te dalla tua parte, ma ci sarà un avversario, uno che ce l'ha con me? Se c'è uno che ce l'ha con te, sarà il diavolo, quello è l'avversario. Dio è sempre dalla tua parte, resta tuo padre, resta tuo fratello. Mai sentire Dio avversario, perché non lo è, lo dice la Bibbia. La vera traduzione del nome di Dio, Yahweh, è proprio la frase finale del Vangelo di Matteo: io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Quello è il nome di Dio, è un Dio che è sempre con me, quando sono bravo e anche quando non lo sono, e rimane con me fino alla fine del mondo e poi mi porta dentro nell'eternità. E allora, cosa dobbiamo fare? Gesù è salito al cielo, noi stiamo lì tutta la vita a guardare per aria. Quando è salito al cielo e gli apostoli stavano a guardare per aria, apparvero due uomini in bianche vesti. Quelli delle vesti bianche sono i cittadini del paradiso. Vestito bianco vuol dire un essere che è già in Dio nell'eternità. E dicono: oè, cosa state qui a guardare per aria? È andato e ritorna, vi ha lasciato qui delle incombenze da fare, andate a predicare il Vangelo in tutto il mondo. Perché il modo migliore per andare dietro a Cristo che è salito al cielo è quello di impegnarsi a rendere più abitabile, più evangelizzata, più santa la terra. Bisogna avere l'idea che il paradiso dobbiamo costruirlo qui, ossia umanizzando, bonificando, buttando via la cattiveria, rendendo la terra un'anticamera del paradiso. Un altro pensiero e qui concludiamo per davvero. Si dice: di nuovo verrà nella gloria a giudicare i vivi e i morti. E qui siamo stati catechizzati maledettamente male, maledettamente male. Si è fatto del terrorismo religioso per ignoranza nella lettura dei testi della Bibbia. Nella Bibbia uno legge la giustizia, per cui sentivo anche da voi, ma Dio è anche giusto. Sì, ma cosa vuol dire Dio è giusto? Dio è amore giusto. E quando è che è un amore giusto? È quando ama. Allora io sono contento che Dio sia giusto, amore giusto. Vuol dire mi ama sempre. Noi continuiamo a fare sì ma. Allora Dio è buonissimo, vuole tutti salvi, Dio perdona, Dio... C'è chi aspetta alla fine della conferenza per certe cose dire: sì, però non dimentichiamo che Dio è anche giusto. Obiezione del cavolo, vuol dire che non hai capito niente di Dio. Quel sì ma è come se Dio un giorno c'ha la faccia buia e un giorno sorride. Non è uno schizofrenico. Dicevamo Gesù Cristo, Gesù vuol dire Dio che salva. Se il nome di Gesù Cristo significa Dio salva, vuol dire che Dio non può dannare, per esempio, perché sarebbe in contrasto col suo nome, con la sua missione. Può solo salvare. E allora che cos'è questo giudizio di Dio? Verrà a giudicare i vivi e i morti. Dicevo a uno di voi, e c'è sul lezionario della Chiesa, anche ambrosiano, in qualche giorno feriale, io lo metterei, 52 domeniche l'anno per un centinaio d'anni, sempre lo stesso ritornello al Salmo responsoriale, questo che vi dico adesso, copiato di sana pianta, che ci dice il pensiero della Bibbia e della Chiesa su che cos'è il giudizio. Il Salmo responsoriale c'ha questo ritornello: il tuo giudizio, Signore, è amore che salva. A me va benissimo un giudizio così. In che cosa consisterà il giudizio? Dio è un amore infinito che mi salva. Ah, meglio di così è quello che vorrei anch'io. Il tuo giudizio, Signore, è amore che salva. Ricordatevelo. Dio non può condannare nessuno, Dio non ha fabbricato l'inferno, ma nella parabola del capitolo 25 di Matteo si dice, qui c'è un grosso guaio, il vostro beatissimo cardinale Martini, uno dei primi anni che era arcivescovo di Milano, andò in Africa a predicare gli esercizi spirituali a dei missionari, compreso i fidei donum o i preti della vostra diocesi che lavorano in Africa, e fece tutto il corso di esercizi su come vanno lette le parabole. Perché non vanno lette? Mi fermo. Voi ai bambini, una volta e ancora adesso, raccontate le favole o e dite delle cose demenziali, se non si capisce che state raccontando una parabola, una favola. Dite, una ragazzina che andava dalla nonna, la incontra il lupo, e allora il lupo va, mangia la nonna, si mette sullo scialle della nonna, quando arriva sta ragazzina, e dice, oh nonno, come sei brutta, non la distingueva da un lupo. È topirate. Geppetto in falegnameria si fece un bambino di legno, e dice, ma dai, ma che dice ste idiozie qui? Bambini per fortuna non si fanno in falegnameria, no? Per fortuna. Quando diceva delle bugie, gli si allungava il naso. Allora dice, sta attento che se dici le bugie ti si allunga il naso. Ma è topirate. Poeti. La luna calante è come un falcetto per andare a raccogliere un mazzo di stelle per portare alla mia bella. In un libro di poesia può anche andare, in un libro di scienza, dice, ma che è quel matto, quel cretino che dice queste cose? Ecco allora, ci sono i cosiddetti generi letterari, ossia c'è il libro delle barzellette che va letto sapendo che dice delle barzellette, delle assurdità, per far ridere. C'è il libro di preghiera, non va letto come il libro delle barzellette, non è un libro per Ledda. C'è il romanzo inventato dal Manzoni o da qualcun altro, dice, a tavolino, a fantasia, e c'è un libro di storia che deve documentarti i fatti che sono arrivati. In altre parole, se andate in una biblioteca trovate romanzi, libri di storia, latino, greco. Ecco, queste divisioni per materia si chiamano generi letterari. Nella Bibbia, nei libri della Bibbia, vengono usati almeno 20 generi letterari diversi. E bisogna capire se è un testo storico, se è una storiella come quella di Cappuccetto Rosso o di quello che, da cui bisogna tirare fuori una morale e non prenderla tutta materialmente, se no facciamo la figura degli sciocchi. Le parabole insegnano, e come ci insegnano, la morale della favola, tanto per usare un'espressione conosciuta. Ma non tutti gli elementi della parabola sono da prendere come fossero dei concetti, sono degli elementi così che illustrano per far capire meglio, per attirare l'attenzione. Vi faccio un esempio. Vi ricordate quando si parla del ricco mangione e pulone che finì all'inferno e dice, manda qualcuno a dire ai miei 5 fratelli che righino dritto, perché non vorrei che venissero qui all'inferno con me a patire. Ma com'è buono questo qui, vuole bene ai suoi fratelli, voglio che non... Uno che va all'inferno è di una cattiveria unica, che vorrebbe tutti giù con sé, perché con quei sentimenti buoni lì, quello lì schizza in paradiso, no? Ma è una parabola. Non voglio fare altre lungaggini, chi ne vuole sapere di più, andiamo fuori lì, fuori dal cancello, fino a domani mattina. Allora, questo Dio che viene a giudicare, chi è? Perché bisogna chiarire chi è. Colui che mi aspetta alla porta del paradiso, tanto per capirci, è mio papà. È mio fratello, figlio di Dio, diventato uomo, che per me è morto sulla croce. Tanto mi ha voluto bene. È il Dio che vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano in paradiso. È il Dio che ha detto: quando sarò elevato da terra e vado in paradiso, vi tiro su tutti. A me non fa nessuna paura incontrare Dio, perché so che mi ama infinitamente. Per male che vada andrà sempre benissimo, perché Dio mi salva perché mi vuole bene Lui, non per il bene che gli ho voluto io, diversamente sarebbe magra, non si salverebbe neanche il Papa. La salvezza è un dono gratuito dell'amore infinito di Dio mio Papà, che mi salva gratis, di Gesù Cristo che è morto per me sulla croce e mi salva gratis. Siete stati salvati gratis, per grazia, dice Paolo Apostolo. E finiva il capitolo ottavo con una frase che io vi leggo ed è veramente conclusiva. Se Dio, il Padre Eterno, è per noi, ossia schierato dalla nostra parte, chi sarà contro di noi? Comunque, non Dio, mettete pure il diavolo, ma Dio no. Egli, Dio, che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà ogni cosa insieme con lui? Visto che ci ha già dato Gesù Cristo, che è tutto, vuoi che poi alla fine ci dia il meno? Ci ha già dato tutto, compresa la salvezza del paradiso, sempre che noi non la rifiutiamo. Dice ancora: chi accuserà gli eletti di Dio? Chi ci sarà lì a dire: questo caccialo all'inferno a fare l'avvocato contro di noi? Dice: Dio giustifica, ossia Dio perdona e salva, questo significa giustifica. Chi condannerà quando si arriva su? Gesù Cristo, che è morto, anzi è risuscitato per noi, sta alla destra del Padre, intercede per noi da una vita, ci butta fuori lui? Chi ci separerà dunque dall'amore di Cristo, ossia dall'andare a stare con Cristo? Io sono persuaso, parola di Dio e non il mio pensiero, che né morte, né vita, né angeli, né principati, né presente, né avvenire, né potenze, né altezza, né profondità, ossia niente e nessuno, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio in Cristo Gesù nostro Signore. Lettera ai Romani, capitolo 8, versetti 31-39. Se la leggete, ci credete, ci avete la risposta al giudizio di Dio. Volete continuare con tutte le tragedie o le comiche che avete in testa, fate pure, ma non vi conviene. Ascoltiamo la parola di Dio, che dice questo.